In scena si alza Sipario sui 103.1, appena rientrati dal GR di Radio Popolare con Radio Città Fugico, il Breakfast Club. Il venerdì è teatro, incontri, musica, filosofia, poesia e tutto quello che può essere un festival alla sua prima edizione, per partire con In Scena, dedicata al confine. Festival del Confine sarà questa sera, domani e domenica. Tre giornate di convegni, spettacoli con filosofi, con appunto, come ho detto in precedenza, musicisti e poeti, con il coordinamento di Gabriele Via, che sarà presente nella parte di incontro sia artistico che di dibattito, con un programma ricchissimo già da questa sera. Conferenza Il confine del sé, identità della persona e senso dell'esistenza. Dopodiché in sera alle 21.30, performance concerto Il confine tra normalità e follia. Sculture sonore, ci saranno, intanto cito come musicisti anche Guglielmo Pagnozzi, che ben conosciamo, come Valentino Corvino. Voce narrante Gabriele Via. Gabriele Via nell'incontro invece alle ore 18 sarà in dialogo con Andrea Zoc. Poi altre giornate che saranno per il weekend, quindi di sabato e domenica, di cui da faremo approfondimento nella conversazione che ho tenuto con Gabriele. Conversazione telefonica, che Gabriele di solito viene in diretta con noi e lo aspettiamo ovviamente, ma come ho già detto in precedenza, una rubrica veramente densa di appuntamenti, quindi ho voluto distribuire gli spazi, iniziando da Teatro dell'ABC, la curatela del Festival del Confine a Piazza di Porta Castiglione 3 a Bologna. Ribadisco, Teatro dell'ABC, un programma molto intenso, e io direi di iniziare con Gabriele a conoscere in approfondimento i motivi di incontro per il Festival del Confine. Buongiorno William, buongiorno alla radio e a tutti gli ascoltatori, grazie di avermi ancora chiamato, è sempre bello essere vostro ospite e soprattutto in questo momento portavoce di una piccola comunità che sta creando questo evento. È un evento molto intenso, fra l'altro, non solo per l'estensione di tutto il weekend, ma anche per i contenuti. Da dove iniziamo, Gabriele? Guarda, io inizierei da questa cosa. Intanto ABC propone una 3 giorni sempre articolata in pomeriggio e sera, dove il pomeriggio ci sono gli incontri, diciamo, più da ascoltare in un certo senso, con prendendo appunti, insomma, il momento della conferenza, della tavola rotonda, della conversazione con gli esperti, diciamo così, e la sera invece c'è il momento della manifestazione delle arti che coinvolgono, diciamo, con il piacere puro, ecco, se si può dire così. E questi 6 momenti hanno tutti il loro fuoco su questa cosa incandescente che è il confine. Il confine è un qualcosa che è ancora se stesso, ma è al suo limite. Confine, cosa c'è di là? E questa è una domanda che ci affascina e soprattutto, purtroppo, in questo momento ci sbatte in faccia una realtà tragica. Ecco, noi in realtà abbiamo pensato a questo prima della deriva recente in Medio Oriente, e comunque chiamiamo a ragionare su questo la filosofia, l'arte e la scienza. Con i nostri pochi mezzi abbiamo però intercettato delle bellissime voci. Venerdì 24 ore 18, conferenza Il confine del sé, identità della persona e senso dell'esistenza. Sarai in dialogo con Andrea Zoc. Brevemente, ci puoi dire qualcosa di più, Gabriele? Sì, dunque, questo è il momento dove noi partiamo con le domande semplici per arrivare a scalfire pregiudizi oppure illuminare delle nebbie. Partiremo con Andrea Zoc, che è un filosofo morale, un antropologo, e faremo quella domandina molto semplice. Quando all'asilo ci sono due fanciulli che litigano per qualcosa, no? Nella memoria di tutti c'è questo insegnamento: la tua libertà finisce dove inizia la libertà dell'altro, no? Io credo che questa cosa se la siano sentita dire tutti, però va bene sul momento, però succedono tante cose nella vita in cui questa piccola saggezza, diciamo, popolare va a misurarsi con una realtà che le presenta aspetti di non facile composizione. Ad esempio, nel momento in cui le due persone che prendiamo per esempio si devono trovare a stabilire dove finisce la libertà dell'uno, inizia la libertà dell'altro, ma hanno ruoli differenti, competenze differenti, responsabilità differenti, come ce la giochiamo? Il filosofo, ora io non voglio sostituirmi al magistero di Zoc, però il filosofo ci aiuterà a capire che, per esempio, la libertà non è un assioma come può essere, che ne so, per Platone la bellezza, il vero, il giusto. La libertà è un prodotto faticoso, è qualcosa che ogni giorno va verificato, controllato, negoziato, ridefinito. Festival del Confine, ho portato la mia personale colonna sonora, anche se di colonna sonora ci sarà e come per la giornata di questa sera, la performance concerto con Guglielmo Pagnozzi, Valentino Corvino, Gabriele Via, che abbiamo ascoltato in questo inizio di conversazione per quanto riguarda il confine tra normalità e follia, performance concerto. Io ho portato Renaud Garcia Fons, contrabbassista, con Arco Luz, musicista che mette insieme diverse emozioni per tutto un tragitto mediterraneo, incrociando realtà storiche musicali con improvvisazione e anche con un racconto in note veramente affascinante dal disco Arco Luz. Nella seconda parte di conversazione con Gabriele Via ascolteremo appunto come si dipaneranno gli incontri anche per domani e domenica, Festival Il Confine, prima edizione Teatro dell'ABC. Dov'è? È a Piazza di Porta Castiglione 3 a Bologna. L'ingresso è gratuito. Gotti è una autorevolissima voce della filosofia, con una grandissima capacità di sollecitare l'attenzione del pensiero sulle parole della quotidianità. Lei è già stata nostra ospite nel 2015, facendo un discorso sulla filosofia della casa, la filosofia della cucina, la filosofia dell'essere domestico. Ascoltarla è qualcosa che porta lontano, perché è una filosofa che ha una capacità, diciamo, di oratoria di lezione, di vivere il qui ed ora quasi, adesso mi perdonerà, ma io lo dico così, quasi spettacolare, cioè ha una, infatti lei mi ha detto sì, scrivi pure colloquio, ma io vado da sola e quindi l'ascolteremo e sono felice di questo. Che cosa poi ci dirà nello specifico sul tema della mancanza lo andremo a scoprire insieme, certo. Anche perché lei fa così e io la rispetto ed è quindi è tutto da scoprire. Poi basta andare a fare una piccola ricerca, insomma è una persona con un tale percorso che è anche con dei titoli bellissimi, quindi venite. Quella sera, voglio sottolineare questo, ci sarà un'altra voce femminile che è Maram al-Basri, una poetessa siriana che ci sarà presentata da un grandissimo poeta che è Alberto Masala, con cui è in contatto da tantissimo tempo. Avranno un dialogo, lei poi leggerà le sue poesie meravigliose. Alle ore 21:30 di sabato, sì, 25 novembre. Ah, sì, le leggerà in lingua e poi Tita Ruggeri leggerà nella traduzione data italiana. E ci sarà anche Valentino Corvino che suonerà l'ud, che è questo strumento progenitore del liuto. Io ho portato chi ha dato note, musica e una voce, pensate, è riconosciuta come la voce di Dio. Nella realtà Sufi la traduzione in note è curata da Susan Dehim, lei è un'interprete persiana da questo disco che stiamo ascoltando, che già ho proposto, per me è capolavoro assoluto, Susan Dehim, Madman of God. Sufi Masters, quindi la poesia Sufi in lingua persiana riportata da Susan Dehim. Si parla di poesia nella seconda serata e non solo, per l'incontro anche alle ore 16 in conferenza tra pienezza e mancanza, il paradosso del limite, Festival del Confine, Francesca Rigotti dialoga con Gabriele Via. Alla sera performance concerto con Maram al-Masri, Alberto Masala e Valentino Corvino al violino, anzi all'oud. abbiamo slittato ovviamente la pubblicità, quando gli incontri sono diversi, i tempi un pochettino cambiano nella rubrica In Scena. Mia libertà finisce quando inizia la tua o viceversa. Quante volte abbiamo sentito, mi rifaccio al primo segmento di conversazione con Gabriele, sono quelle frasi un po' come la legge è uguale per tutti, ma chi scrive la legge? Chi appunto detta la legge? Chi controlla i controllori? Sono labili confini e appunto il Festival del Confine fa un approfondimento su tutto ciò. Il confine appunto è quanto mai affascinante perché ci porta a conoscere quello che vi è oltre e allo stesso tempo ci dà la possibilità di ampliare quello che invece è dentro di noi, ed è un'ottima occasione per queste diverse sfaccettature con filosofi, musicisti, poeti, protagonisti a questa prima edizione, di averne una possibilità importante. Al teatro dell'ABC, ribadisco, piazza di Porta Castiglione 3 a Bologna, e arriviamo alla conclusione. Sì, due parole sull'incontro con il professor Ventura, perché è uno di quegli scienziati che guarda al limite proprio tra l'indagine scientifica e la coscienza e la capacità di esprimersi a livello artistico. Ha accettato questo nostro invito e farà dal vivo alcune dimostrazioni di proprio, adesso dico una sciocchezza, noi diciamo l'albero, le radici sono nella terra, la chioma nel cielo, e abbiamo stabilito tre cose: l'albero, la terra, il cielo. Lui arriverà a farci vedere che sono paradigmi superati, è un'unica cosa, è tutta viva, e ce lo dimostra, ce lo racconta a partire proprio dall'interno della vita delle cellule fino alla possibilità di comprendere questo insieme di vita che si muove. Quindi è una cosa per me di una, perché per il poeta, sai, è facile, ma quando deve dirlo lo scienziato, sì, ha bisogno di appoggiarsi su cose che vadano al di là dell'emozione pura. Dunque c'è una mail che io sto cercando perché la mia memoria è quello che è. La mail è abcprenot@libero.it. Questa mail si fa prenotazione per gli eventi. Gli eventi li trovate su Facebook alla pagina di abc.bo oppure sul nostro sito abcbo.it. Io non so quanto questi codici detti così arrivino, però l'associazione ABC a Bologna ha la sede nel teatro di Porta Castiglione, in piazza di Porta Castiglione 3, la sede diciamo operativa dove avverranno le cose, ed è sempre presente sulla pagina Facebook, che è lo strumento ad ora più comodo per noi, che è abc.bo. Grazie a te, spero che le informazioni, perché sono parecchie, siano arrivate, e ci vediamo tutti, per chi vorrà, da venerdì. Pakistan, Nusrat Fateh Ali Khan. Di Must Must e dei Massive Attack. questa nostra prima parte. Sempre un piacere dialogare con Gabriele Via. Avremo modo di ritrovarlo anche in diretta sui 103.1 per il Breakfast Club, Radio Città Fujiko. Giunta al termine la prima realtà di presentazione, ci spostiamo a breve, continueremo, perché come ben sapete il palcoscenico del venerdì è sempre molto ricco. A tra poco, a dopo la pubblicità, buon ascolto. Must. Paririda.